Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Buona domenica a tutti e bentornati ai figli di Enea. Si è parlato molto in questi mesi di infermieri, di medici, ma gli operatori sanitari sono rimasti un po' nell'ombra, sono coloro in realtà che sono preziosissimi negli ospedali, nelle case di cura, perché fanno compagnia ai malati, li lavano, li vestono, passano con loro moltissimo tempo. Amala Diop è un operatore sanitario, è milanese, ha origini del Mali, ha 25 anni e lavorava in primavera al Dugnocchi proprio quando c'è stata la prima ondata di coronavirus e il lockdown. È stato licenziato perché ha chiesto dispositivi di sicurezza. Lavorava al Dugnocchi da quasi 3 anni. A noi è stato detto di usare i DP. I DP sono i dispositivi di sicurezza. Sì, esatto. Per non spaventare i pazienti e i loro parenti. Siamo a febbraio, si sente parlare di questa epidemia in Cina, si teme che arrivi in Italia, ci sono 2 malati cinesi allo Spallanzani a Roma. Voi vi preoccupate e chiedete di usare le mascherine. Sì, noi chiediamo, ma noi oltre a questo noi ci portiamo anche le nostre mascherine da casa, ce le siamo portate da casa, ma ci è stato negato l'utilizzo delle nostre mascherine. Qualcuno era stato trovato ad usare la mascherina ed è stato ripreso direttamente quel giorno lì dal nostro responsabile, se non sbaglio. Non è stato ripreso direttamente lei? No, io non sono stato ripreso. Praticamente noi ci siamo fidati di quello che loro ci avevano detto, che loro avevano controllato tutto, che il palazzolo era sicuro, inteso il Dugnocchi. E ci siamo fidati di quello che ci hanno detto perché, essendo il tuo responsabile, se ti dice una cosa del genere ti fidi. Però noi non avevamo pensato al fatto che loro parlano così, però non hanno fatto nessun controllo, non avevano iniziato a fare tamponi, non avevano fatto niente. L'unica cosa che era cambiato era tipo che i parenti entravano, non tutti insieme come al solito, entravano uno alla volta, cioè arrivavano, stavi 10 minuti col parente e poi andavi via, poi entrava l'altro, però anche così non era sicuro né per noi né per i pazienti, perché la persona viene da fuori, non è controllata, non si sa se ha fatto il tampone, non si sa se è stato a contatto con qualcuno di positivo. ...140 pazienti del Dugnocchi muoiono per coronavirus. Lei pure viene contagiato? Ah sì, certo. Era normale perché non avendo i dispositivi, essendo in tanti, ad esempio nello spogliatoio, ci cambiavamo tutti assieme nello stesso spogliatoio, e molti erano di reparti diversi. Se uno di noi era positivo, è normale che contagi un'altra persona che va in un altro reparto e inizia a infettare anche lì. Quando lei ha fatto il tampone e ha scoperto di essere positivo, aveva dei sintomi? Ho fatto la notte, non so se era il 12 o il 13, ma ho fatto la notte. Di marzo? Sì, tornato a casa non mi sentivo, cioè già al lavoro non mi sentivo bene, però tornato a casa mi sentivo un po' strano. Ho chiamato il mio medico, gli ho detto, non capivo se fosse febbre o se fosse qualcos'altro. Ho chiamato il mio medico e mi ha detto di stare a casa una settimana. Chiamo al lavoro e mi dicono che è stato trovato qualcuno di positivo. E praticamente ho iniziato a sentire alcuni miei colleghi e praticamente avevamo tutti gli stessi sintomi, praticamente. E poi il 17... sono andato a fare il tampone, se non sbaglio, poi ho scoperto 3 giorni dopo di essere positivo. Piano piano scoprivamo tutti i risultati, i nostri risultati del tampone. e praticamente erano quasi tutti positivi, il 95% del reparto era positivo. Lei che contatti aveva con i malati? Me lo spieghi praticamente. Praticamente io mi occupavo dell'igiene, della vestizione, dell'alimentazione, contatto in qualsiasi modo con loro. Quando ha avuto il tampone negativo? Il 21 di maggio. E oggi come sta? Adesso sto bene. Signor Diop, quello che è avvenuto poi a maggio è che le è arrivata una lettera di licenziamento. Ah, sì, certo. Sì, a me è arrivata la lettera di licenziamento il 6 maggio. Praticamente anche prima di questo a me era arrivata la lettera di sospensione. Io ero stato sospeso dal lavoro, però io non ero sul posto di lavoro. Io ero praticamente a casa mia, rinchiuso in quarantena. Ma con che motivazione l'hanno licenziata e prima sospesa? Mi hanno sospeso perché ho fatto la denuncia praticamente, li abbiamo denunciati. E poi mi hanno licenziato perché dicono che ho divulgato notizie che non dovevo divulgare e che ho parlato con i giornalisti. Lei si è rivolto in quel periodo insieme ad altri colleghi a un avvocato per essere tutelato perché aveva lavorato con dei malati Covid senza dispositivi di sicurezza. Esatto, però io avevo tutte le motivazioni per fare una cosa del genere, perché io a inizio marzo io ho ricevuto, scusi, il 14 di marzo io ho ricevuto tramite WhatsApp un documento che mi diceva che io ero stato a contatto con qualcuno di positivo e questa cosa qua e questo documento qua era stato aggiornato il 10 di marzo, quindi vuol dire che c'è stato quel lasso di tempo in cui noi siamo stati a contatto con tutte le persone della struttura e vuol dire che l'abbiamo preso, l'abbiamo passato ai nostri familiari, ai pazienti. E quindi l'abbiamo divulgato praticamente un po' in giro, perché c'erano alcuni colleghi che venivano anche da Bergamo. Lei ha mai avuto, prima di questa occasione, nei 3 anni per cui ha lavorato per il Dognocchi, dei provvedimenti disciplinari? Ha mai litigato con i vertici? Ha mai avuto dei problemi? Anche perché io l'ho assunto dalla cooperativa. Con la cooperativa ho avuto solo problemi sui pagamenti, perché loro tardavano sempre a pagarci, come ad esempio, guardi, sono passati 6 mesi, loro hanno 6 mesi per pagare il mio TFR, sono passati 6 mesi e non ho ancora ricevuto il mio TFR. Allora, cerchiamo di addentrarci in questo capitolo della sua storia, perché lei è un operatore sanitario, lavorava all'interno della struttura Dognocchi, ma non era assunto dal Dognocchi, era assunto da una cooperativa. Il contratto che viene fatto dalla cooperativa non è lo stesso contratto che verrebbe fatto al Dognocchi, esatto? Esattamente, esatto, ma oltre a quello, se tu lavori praticamente con l'ANPAS, non Che è puoi questa lavorare con cooperativa per Dogno. cui lei lavorava? Sì, se lavori per la cooperativa non puoi lavorare per la struttura. Mi fa un esempio della differenza di salario per chi è assunto dalla cooperativa e per chi è assunto invece dalla struttura? Ho sentito colleghi, perché abbiamo avuto un confronto. Alcuni di loro che facevano part-time prendevano come le persone che facevano full-time per la cooperativa. Quindi c'erano due tipi di contratto, di serie A con la Fondazione Dognocchi e di serie B con la cooperativa. Ma voi, operatori sanitari assunti dalla cooperativa, facevate le stesse mansioni, di quelli assunti dal Dognocchi? Allora, le mansioni sì, erano le stesse, tranne che erano pagati di più, e in più, ad esempio, mi occupavo dell'ordine di alcuni materiali per dei pazienti. E so che ai dipendenti della struttura veniva pagato questa cosa, tranne che io che mi occupavo di questa parte qua del mio reparto, non mi veniva pagato. E in più io ho fatto anche ad esempio, ho fatto dei corsi tramite la cooperativa, e mi è stato detto che mi sarebbero stati pagati questi corsi qua, però non li ho mai visti, non mi sono mai stati pagati, non mi sono mai stati dati neanche in giorni di riposo, e né io né i colleghi che avevano fatto i corsi con me. E invece sì, quelli della struttura, quando effettuavano questi corsi qua, venivano pagati, ma con la cooperativa non so come mai non ce li abbiano mai pagati. Gli altri lavoratori che come lei sono in causa sono stati licenziati, sono stati trasferiti? Allora, io sono stato licenziato, e altri quattro miei colleghi che erano in partita IVA, praticamente è stato risoluto il loro contratto di collaborazione. E sono stati lasciati a casa, insomma. Esatto, però il loro contratto alla fine non era finito. Quindi è ingiusto anche questa cosa qua che li abbia lasciati a casa, perché potevano comunque trasferirli ma non lasciarli a casa. Lei ha iniziato a lavorare in questa cooperativa 3 anni fa ed è, dicevamo, un operatore sociosanitario. E prima di questo lavoro dove ha lavorato? Ho lavorato ad esempio in una ditta a Peschiera Boreo che si occupava di ambulatori, sempre utensili sanitari, e lavoravo però tramite una cooperativa, che anche lì anche ho avuto un po' di ingiustizia, perché mi facevano contratti determinati, poi mi lasciavano a casa per poi farmi entrare di nuovo determinati, e poi mi hanno rilasciato a casa e poi mi hanno fatto entrare di nuovo un contratto a chiamata. Poi lì mi ero stufato e quindi ho lasciato e ho fatto altri lavori, sono entrato a lavorare in altre strutture sanitarie, e dalle strutture sanitarie poi sono arrivato alla cooperativa AMPA. Ci fermiamo brevemente ma torniamo con questa storia straordinaria, davvero importante, di Amala Diop tra pochissimo. Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio. Io mi sono occupato di ufologia fino da quando ero ragazzo. Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api. Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza, la trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione. Sono 1000, sono 1 milione, parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni. Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui. Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. I figli di Enea. Siamo di nuovo con voi e con Amala Diop per raccontarvi questa storia di un operatore sanitario italiano di origini straniere che è stato licenziato perché ha chiesto dispositivi di sicurezza. Ci racconta qualcosa di sé. Lei è di origini maliane, se non sbaglio. Sono nato in Mali e sono venuto in Italia quando avevo 10 anni. E da lì sono rimasto in Italia, a Milano, fino ad oggi. E ho studiato lì a Milano, sono cresciuto là. Ha ottenuto la cittadinanza con la maggiore età, immagino. Sì, sì. Dopo aver passato 14 anni, sì. Dopo aver passato più di 14 anni qua, ho ricevuto la cittadinanza. Ha studiato in Italia. Come mai voleva fare l'operatore sanitario? Ho fatto tanti lavori diversi. ho fatto il cameriere, ho fatto il tecnico, ho fatto l'elettricista, ho fatto anche il responsabile delle del personale delle pulizie. L'unica cosa che mi aveva attirato per fare l'operatore sanitario, essendo una persona a cui piace aiutare le persone, ho detto proviamo, ho fatto il corso e dopo aver finito il corso volevo aspettare un mesetto prima di mettermi a cercare lavoro, tranne che ero stato chiamato subito e quindi ho iniziato subito a lavorare. Quale parte del suo lavoro le piaceva molto? No, è come se io fossi il loro nipote e loro fossero i miei nonni. È un po' strano come cosa, però di affezione. Io tuttora non mi pento di ciò che ho fatto, perché praticamente ho visto che comunque ho fatto, cioè da quando ho iniziato a lavorare lì fino al mio licenziamento, ho visto che mi sono sempre comportato nel modo giusto, ho sempre fatto le cose nel modo giusto, e di questa cosa me ne sono accorto pochi giorni fa, perché ho ricevuto delle chiamate da parte di alcuni parenti che hanno cercato il mio numero tramite altre persone, e comunque diciamo che sono riuscito a trovare il mio numero, mi hanno chiamato più di una volta per ringraziarmi per le cose che ho fatto per i loro parenti, e poi sono stato contattato anche tramite i social da alcuni parenti che comunque mi venivano dentro la struttura e mi hanno ringraziato per quello che ho fatto e per quello che sto facendo. E sono veramente contento di questa cosa, perché vuol dire che il tuo lavoro l'hai fatto, e se loro notavano questa cosa, penso che pure la struttura e pure la cooperativa dovrebbero notare questa cosa qua. Non mi aspettavo che mi succedesse una cosa del genere, perché non pensavo che mi sarebbe mai capitato. Ho sentito di storie, ho letto storie del genere sui giornali, ma non pensavo che sarebbe mai capitato a me. Però mi è successo e sto cercando di uscirne fuori. Tra l'altro, operatori sanitari, infermieri e medici in primavera venivano retoricamente chiamati eroi, quindi una beffa per lei ancor di più. Sì, esatto, perché comunque anche da parte dello Stato è stato detto che noi operatori non venivamo, anzi chi lavorava nella sanità non poteva essere licenziato. Tranne che io e i miei colleghi siamo stati sospesi, siamo stati licenziati, siamo stati trasferiti, e le persone che continuavano a dire di questa cosa qua non hanno mosso un dito, non hanno fatto nulla, non hanno parlato di questa cosa, e penso che tutta l'Italia sapesse di questo problema qua che succedeva. Ora lei è in cerca di lavoro? Sì, ora sono in cerca di lavoro, tranne che in sanità è un po' complicato, quindi sto cercando in altri settori, perché in sanità le persone sanno, ormai conoscono il mio nome, e molti non vogliono avere a che fare con me per il fatto che abbia fatto la denuncia. Quindi dove sta cercando? Ma sto cercando in qualsiasi ambito lavorativo, autista, tecnico, in ditta, ma qualsiasi cosa veramente. Sto guardando anche all'estero, perché le persone mi dicono che lavorativamente è meglio lavorare all'estero che in Italia. Effettivamente sto vedendo, ho alcuni amici che comunque essendo all'estero hanno lavorato, cioè hanno avuto esperienza sia in Italia che all'estero, e quindi sanno com'è. E lavorativamente mi dicono che non è uguale. Ad esempio gli operatori all'estero hanno i loro diritti, ma stranamente in Italia non li abbiamo. sei pagato per quello che fai. E in Italia invece fai di più, ti spacchi la schiena, ti ammazzi il lavoro, però sei sempre visto come l'ultima ruota del carro, non ti vieni mai preso in considerazione, ed è sbagliato questa cosa. Grazie per questa sua testimonianza. Grazie a lei. Grazie per essere stati con noi all'ascolto di questa puntata, di questa storia dei figli di Enea. L'appuntamento è sempre per domenica prossima alle 14. Io vi auguro una buona giornata, una buona domenica a tutti. Ciao.